la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio di essere qui in ascolto o di scaricarci appunto naturalmente in podcast. Sono le 16:36-35 secondi, siamo un po' in ritardo anche oggi, e nel frattempo è in corso la conferenza stampa di Obama e di Renzi. Obama ha avuto parole buone sia per Napolitano che per Renzi, ha detto che è favorevolmente impressionato dall'energia di Renzi e ha detto che è un bene per l'Italia avere un uomo di Stato così forte come Napolitano. Renzi si è tenuto sulle generali, ha condiviso le forti proteste con l'America verso la Russia per l'Ucraina, ha detto che yes we can vale anche per noi, ma insomma niente di molto sostanziale. Vado subito all'argomento del giorno, ma prima di lanciarlo, oggi parliamo di un pezzo di sud dimenticato, con una storia incredibile, perché parleremo di un pezzo di sud che da più di un anno è isolato, non ne parla nessuno, c'è stata una frana su una strada provinciale e da più di un anno, come sentiremo, non si trova un po' di euro per intervenire, quindi loro sono isolati, per chi interventi di emergenza devono andare all'ospedale più vicino, si devono fare una strada lunghissima perché la strada è bloccata. Questo capita nell'Italia di oggi, capita più al sud che al nord, e allora su questo pezzo di sud dimenticato oggi facciamo una trasmissione e voi potete chiamare l'800 24 00 24. Se siete del Cilento, visto che parleremo del Cilento, provincia di Salerno, bene, ma comunque di che cosa pensate dello stato, delle condizioni infrastrutturali del sud, in particolare del sud. Prima però voglio ringraziare tutti coloro che sono stati veramente tantissimi, che ieri sulla puntata della scuola ci hanno poi mandato lettere, messaggi, opinioni, non solo per la parte che riguardava la seconda parte della trasmissione, cioè coloro che hanno vinto l'abilitazione rispetto a coloro che invece poi non hanno fatto le prove selettive e sono stati abilitati per anzianità di supplenza, ma soprattutto ci hanno scritto tantissimi genitori per spiegarci come funziona il loro rapporto con gli istituti frequentati dai figli che chiedono i contributi. E in particolare per tutti voglio ringraziarne uno, William Ventura, che ci ha scritto da San Giovanni in Persiceto e che ci ha dato una buona dimostrazione di come andrebbe fatto, secondo me, come andrebbe affrontata, perdonatemi, la questione dei contributi che le scuole chiedono per l'ordinaria amministrazione, perché dicono che non hanno fondi, perché ci ha mandato il rendiconto preciso fino al centesimo di come loro, raccogliendo i contributi, organizzando iniziative come feste per carnevale e così via, poi al dettaglio sono in grado di dire a tutti coloro che hanno contribuito qual è il numero di aule realizzate, allestite, per quale prezzo unitario hanno poi utilizzato questi soldi, eccetera eccetera eccetera. Allora, la mia opinione è che tutti i genitori che fanno queste cose mettendoci tempo, testa, come in questo caso, perché c'è un rendiconto di questa scuola San Giovanni in Persiceto, la scuola Quacquarelli e la scuola Romagnoli, veramente ben fatto. L'appello che vi lancio è: perché non vi coordinate, oltre che farlo nei vostri istituti, a livello provinciale e regionale? Pensate quanto sarebbe utile sapere davvero qual è l'ammontare delle risorse che voi date alle scuole frequentate dai vostri figli. Se ci fosse una raccolta di dati fatti a livello provinciale e poi regionale, noi saremmo in grado di dire con più forza: aumentiamo le detrazioni per chi direttamente mette mano al portafoglio, oltre che con le tasse, ovviamente, per la parte fiscale generale che copre le spese scolastiche. Pensateci, iniziate ad allargare le vostre iniziative spontanee, che come in questo caso sono straordinariamente di esempio, mettetele in rete e tentiamo di arrivare a un rendiconto generale il più possibile esteso. Oltre a quello, capisco, significa metterci altro tempo per farlo, oltre a quello che dedicate già per dare risorse aggiuntive alle scuole dei vostri figli, però questo darebbe molta più forza a questo sforzo spontaneo che è giusto valorizzare. Per valorizzarlo bisogna quantificarlo, per quantificarlo bisogna che voi accresciate gli sforzi che già state facendo, perché come in tutte le lettere che ci sono arrivate si tratta di migliaia e migliaia e migliaia, migliaia di euro, ecco, quindi tanto vale saperne di più, perché non c'è un'anagrafe pubblica ovviamente di queste cose. Grazie ancora a voi tutti, grazie a William Ventura e a tutti coloro che ci hanno scritto. E andiamo al caso di oggi. È un caso veramente inverosimile. ma di quelli che capitano in Italia, un paese dove l'inverosimiglianza diventa poi la regola più che l'eccezione. Nel febbraio 2013 una frana, una delle tantissime che capitano di fronte alla pessima tenuta del nostro sistema orografico montuoso, avvallamenti, per via ovviamente di quanto non spendiamo per una corretta tenuta idrogeologica del territorio, nel febbraio 2013 si abbatte una frana a un certo punto sulla strada provinciale 430, stiamo parlando appunto del Cilento, e all'inizio si interrompe una corsia di questa strada provinciale, se non che non si interviene nel tempo. Ovviamente la frana non si ferma, si arriva a dover chiudere completamente la strada provinciale. Dal febbraio 2013 a oggi, siamo alla fine marzo del 2014, nessun intervento, perché non ci sono i soldi e perché per tante altre ragioni che adesso ci spiegherà il nostro ospite, cioè il vice sindaco di Stella Cilento, espressione della lista civica, quindi non di un partito, che è con noi e che io ringrazio, si chiama Giuseppe Bianco. Buon pomeriggio e grazie, signor vice sindaco. Buonasera direttore, no, è un grande piacere sentirla. La ringrazio. Allora, ci spiega un pochino come è possibile stare per 14 mesi senza trovare il modo che tutte le autorità, che adesso lei ci enumererà, che sicuramente avrete a quel punto attivato, eppure continuate a restare praticamente isolato con tutte le conseguenze che adesso ci spiega. Da cosa deriva una simile situazione? Ma in effetti il presidente della provincia, quindi la provincia, le istituzioni investite di questo problema scaricano la colpa al governo Monti, al governo Letta, dicono che praticamente i vari tagli hanno fatto in modo che in effetti le risorse sono venute a mancare e quindi praticamente non hanno i soldi, materialmente i soldi, per poter affrontare questa emergenza, che è un'emergenza veramente incredibile in un posto dove le bellezze naturali sono bellissime, ci sono problemi per quanto riguarda le emergenze per le autoambulanze, visto che l'ospedale più vicino è Vallo della Lucania, si deve per forza passare per quella strada che è interrotta dal febbraio del 2013. La situazione si è aggravata anche a gennaio del 2014 perché un'altra frana ha praticamente ostruito anche l'altra corsia, che bene o male si riuscì a transitare in un unico senso di marcia. Per quanto riguarda la situazione del passaggio, si utilizza una vecchia strada provinciale che in disuso da tempo praticamente non è in grado di poter sopportare i camion, le auto che attraversano in entrambi i sensi di marcia. Allora, ma qui stiamo parlando però non di un intervento di ordinaria manutenzione, di un intervento straordinario a fronte di un'emergenza. La provincia anche di fronte a questo ha detto: noi non abbiamo un euro disponibile. Perché poi tra le altre cose è successo pure questo, che a monte di questa frana ci sta praticamente un ponte e anche i piloni di quel ponte sono ceduti. Praticamente poi si è appurato che quei piloni erano stati appoggiati sul terreno fragile anziché sulla roccia e non c'erano i pali che potevano sostenere il cedimento di questo ponte. E quindi ecco la situazione che è ancora più aggravata praticamente. Certo, sì. Non ci sono solo gli elementi dovuti, per così dire, alle frane, alla mancata tenuta del terreno, ci sono anche delle evidenti mancanze dovute a come sono stati fatti i lavori, perché lei capisce che se descrive che ci sono i piloni di un ponte che sono solo appoggiati sulla roccia. Immaginiamo una cosa, praticamente questa benedetta superstrada che attraversa tutto il parco del Cilento nella parte interna, e quindi collega sia la parte interna che la parte mare, ci sono voluti 30 anni per realizzarla, è stata poi ultimata nel 2006, si pensava di che forse abbiamo risolto almeno in parte il problema della viabilità nel Cilento, perché un posto così bello arrivarci è incredibile. Quindi non stiamo parlando neanche di un'opera viaria, diciamo, che ha un'età di decenni, decenni e decenni. No, è stata ultimata nel 2006, a febbraio del 2006. complimenti rispetto a chi ha fatto i lavori appoggiando solo sulla roccia i pilastri. Praticamente appoggiando sulla terra. Allora, aspetti che adesso abbiamo 60 secondi a proposito di strada con l'informazione stradale e poi torniamo con il vice sindaco di Stella Cilento, Giuseppe Bianco. Un pezzo di sud isolato da 14 mesi, non ci sono i soldi per intervenire. Chi si sente male con l'ambulanza deve fare un giro di decine e decine e decine di chilometri. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:47, primi 21 secondi. Nel frattempo, dalla conferenza stampa in corso Obama e Renzi. Obama ha dichiarato: sosterremo la decisione dell'Italia sulle riforme. Renzi ha detto: gli Stati Uniti sono un modello, ma l'Italia deve dare corpo alle riforme che non ha fatto. L'Expo, appuntamento importante per la tradizione italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Obama ha confermato che gli Stati Uniti, ma questo già si sapeva, parteciperanno a Expo 2015 e poi ha aggiunto di avere molta fiducia nelle riforme di Renzi. Torniamo nel frattempo a questo pezzo di sud che da 14 mesi non riesce a venire a capo del fatto che un evento franoso poi estesosi e l'interruzione di una strada provinciale che è quella fondamentale per entrare dal litorale verso la parte interna del Cilento, e niente, non si riesce a venirne a capo. Abbiamo una telefonata, Angelo che ci chiama dalla provincia di Latina. Prego Angelo. Senta, io sono il sindaco del comune di Rocca Massima in provincia di Latina. Sì, non si è capito bene, allora, Massima o ma, Rocca Massima? Rocca Massima. Sì, perfetto, ci dico. Rocca Massima in provincia di Latina. Sì. In data 8 gennaio, sulla strada provinciale che collega il comune di Fori con il comune di Rocca Massima, è caduto un masso. L'amministrazione provinciale, chiamata dal sottoscritto la notte stessa, ha liberato tutto, però siccome il masso viene dalla scarpata, quindi la competenza è del dissesto idrogeologico della regione, la provincia ha chiuso la strada e ha detto: io riaprirò la strada quando la regione mi dice che la costa è in sicurezza. E nel frattempo è avvenuto che la regione abbia fatto l'intervento oppure no? No, ma nel frattempo l'interessamento mio, del sindaco di Cori e quant'altro, il bello che non è che i soldi non ci sono, è la burocrazia, perché il contributo è stato assegnato una prima volta, è stato ritirato per la seconda volta, no, non può essere una somma urgenza perché la somma urgenza si fa subito, non si fa dopo un mese. 10 giorni fa delibera di giunta regionale alla regione Lazio, deliberato il finanziamento, poi ritirato di nuovo, la strada è interrotta, dobbiamo fare 25 chilometri in più tutto quanto, in scuola bus e quant'altro, e quindi il comune di Cori, che è diciamo titolare della strada ma interessa più a noi come comune, certo, ha dovuto rifare di nuovo la richiesta al Genio Civile di Latina, sempre regione Lazio. Quindi il problema a volte non sono i soldi, ecco, nel vostro caso ci sono i soldi, i contributi vengono stanziati poi ritirati, ma è la burocrazia per l'eccesso di competenze concorrenti, perfetto, male, e il cittadino perfetto subisce. Allora, nel caso invece di cui stiamo parlando, della strada provinciale cilentana, non ci sono neanche i soldi. Sentiamo Domenico che chiama da Salerno. Prego Domenico. Domenico in linea? No, Domenico non è in linea, quindi torna. Vero? No, è caduta la linea, quindi vediamo un po' se riusciamo a richiamarlo, perché vedo che era qualificato come imprenditore, quindi magari insiste esattamente su quest'area. Allora, il vice sindaco di Stella Cilento, che è qui con noi, Giuseppe Bianco, quali sono le cose che, dopo 14 mesi, che cosa raccontate ai cittadini? Che cosa gli potete dire che si possono aspettare entro quando a questo punto? Non c'è nessuna certezza purtroppo, nessunissima certezza, perché sia il presidente della provincia Iannone sia l'assessore Pierro hanno detto: soldi non ce ne sono, non vi possiamo dare certezza di quando si potranno avviare i lavori di ripristino. Ma ripeto, questo poi è un problema, secondo me, che è un problema, ma il problema del Cilento è un problema praticamente che investe un poco tutto il territorio, certo, è solo un buco la Cilentana. Oh, ma a quel punto era possibile, sia pur essendo la strada di competenza provinciale, chiedere alla regione? Sicuramente avrete fatto, avete tentato tutto, avrete interessato i politici dell'area e così via, nessuno è riuscito a produrre. La regione ha stanziato dei fondi, sì, ma per altre strade, non per questo. Ah, ecco, perfetto. Certo, beh, molto utile naturalmente questo genere di cose. Secondo lei, lei è espressione della lista civica, quindi si può permettere anche di dare giudizi, diciamo così, con più libertà. C'è un problema di scarsa rappresentanza, di scarsa incisività dei rappresentanti politici locali a livello regionale e nazionale? È questo quello che manca per fare la differenza quando mancano i soldi e di fronte al problema delle competenze? No, io ritengo che purtroppo sia la provincia che la regione Campania stanno pagando i problemi antichi. Cioè, quando ci sono sperperati i soldi pubblici per fare feste di piazza, per dare finanziamenti per il cantante a Marina di Camerota, a Casalberino, a Palinuro, ad Acciaroli, quindi praticamente adesso sono in difficoltà e non si sono preoccupati per queste evenienze che sono ben note sul nostro territorio. Poi chiaramente manca la manutenzione ordinaria, non dico la straordinaria, ma la manutenzione ordinaria che si dovrebbe praticamente tutti i giorni esercitare con la pulizia delle cunette, con la reggimentazione delle acque, e quindi praticamente tutto questo manca. È chiaro che quando poi piove in maniera diversa dal solito succede. L'ammontare dei lavori necessari per rimuovere quello che è caduto sulla strada e per la messa in sicurezza rispetto al totale dell'evento franoso, più o meno quanto potrebbe essere? Ma intorno al 1,5 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di una cifra che non è poi spropositata, certo, 1,5 milioni di euro. Vabbè, certo, se guardiamo il bilancio di Stella Girente sicuramente è grande, se guardiamo il bilancio regionale è quasi nulla. Allora abbiamo di nuovo in linea Domenico, prego Domenico, ci dica. Buonasera. Sì. Praticamente il Cilento è un tesoro d'Italia, gestito purtroppo in maniera addirittura scriteriata, con un frazionamento indecente delle risorse, quelle poche risorse che ci sono, e che con evidenti problemi. Il problema della strada, oltre ovviamente ai giusti e sacrosanti problemi enunciati dal sindaco di Stella Cilento, è un problema anche per chi vuole fare impresa, ovviamente. Nel Cilento chi pensava di poter intraprendere delle attività e sono un fortissimo disincentivo. A tal proposito la inviterei, dottor Giannino, a visitare gli scavi di Velia. Li conosco. L'antica Elea, per chi ha fatto Guardi le condizioni in cui versa un tesoro inestimabile. Sono d'accordo con lei, purtroppo, sono d'accordissimo con lei. Tra l'altro non molti conoscono ovviamente le rovine di quello che è stato uno dei più grandi centri filosofici del Mediterraneo in epoca preclassica. Mi è capitato di portare degli amici, il biglietto staccato era ancora in lire. Ecco, questo per dare un'idea, sì, chiaramente. Va bene, grazie, sì. Grazie Domenico. Signor Vice Sindaco, e quindi in questa condizione si accetta quello che bisogna accettare, per così dire, non c'è altro da fare che aspettare. Non e dire... protestare davanti alla provincia, protestare davanti alla regione, queste sono cose che sono state già fatte, sì. Però i risultati purtroppo non si sono visti. Ma io ho sentito la telefonata di prima, volevo dire che praticamente il Cilento è patrimonio dell'umanità. Sì. Però diciamo non siamo molto dall'UNESCO. Sì, sì. Il Cilento è quello che vuole, però non siamo in grado di fare quel minimo di manutenzione, non dico di valorizzazione, perché la valorizzazione è già qualche cosa di superiore, ma qui stiamo parlando di manutenzione. Va bene, vi abbiamo proposto, grazie al vice sindaco di Stella Cilento Giuseppe Bianco, uno dei tanti casi italiani di come non si riesca a fare fronte neanche a ciò che la natura, ma anche con l'improntitudine dei lavori pubblici, devasta o colpisce. Può passare 1,5 anni e una parte del territorio resta isolata. La risposta è: aspettate, non c'è niente da dire. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.